Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday, happy days. The weekend comes, my cycle humps. Buon pomeriggio cari radioascoltatori, bentornati su CRM Happy Radio e dentro il programma CRM Happy Days. Saluto io la mia carissima amica Gerardina Turdo, che vi ha tenuto compagnia dalle 15 alle 17 col suo programma Semplicemente Insieme. La saluto, un bacio, ciao cara. Ecco, e un bacio anche a voi cari radioascoltatori, che se volete mandarci dei messaggi potete farlo al 335 56 37 251 e potete seguirci anche su Facebook alla pagina CRM Happy Radio e sul sito www.crmhappyradio.it. E oggi, questo mercoledì 19 dicembre, incominciamo subito con un gran pezzo dei Rolling Stone. In effetti do proprio l'occasione di fare gli auguri al chitarrista Keith Richards, che compie 70 anni, figurati, la storia del rock, i suoi sono i 70 anni più incredibili. Grande Richard, io vi lascio con questo pezzo meraviglioso e incominciamo il nostro pomeriggio insieme con i Rolling Stone.

noi rientriamo come sempre all'interno del programma CRM Happy Days. La voce che sentite, che vi terrà compagnia fino alle 19, è quella di Alessandro Savarese, che vi dà sempre un buon pomeriggio. E io ho visto che si sta avvicinando proprio questo Natale, ce l'abbiamo proprio alle porte. Già la gente vedo che, diciamo, va a acquistare quel che può. Li vedo belli indaffarati a fare presepi, alberi, mettere decorazioni, luminarie e tanto altro. Però c'è, cioè, la cosa importante anche del Natale è quella, è mangiare bene. Questa è una cosa che noi sappiamo fare molto bene, devo dire. E a proposito di cibo natalizio, parliamo appunto di una ricetta classica, che è appunto il tacchino di Natale. Il preparatore di ricerca scientifica studia come suturare appunto il tacchino di Natale. Il tacchino ripieno è un piatto tipico di Natale di molti stati, ma merita una ricerca scientifica. Evidentemente sì, secondo la facoltà di agricoltura dell'università svedese di Uppsala, i cui ricercatori hanno approfondito quale sia il modo migliore per suturare il tacchino ripieno prima di metterlo in forno. Questo è un problema che hanno molte persone, effettivamente. Cosa dicono i ricercatori? Hanno infatti considerato una mancanza il fatto che ci siano molte indicazioni su come disossare il tacchino, come preparare il ripieno e come cucinarlo, ma non su come chiuderlo. Quindi non c'è proprio, non te lo spiegano proprio molto bene. I ricercatori hanno fatto esperimenti su 15 tacchini ripieni che sono stati preparati nello stesso modo, ma richiusi, impegnando 5 diversi partner di sutura per valutarne i migliori effetti estetico e se rimanesse integro una volta la sua sutura. Perché effettivamente, se non lo chiudi bene, lo metti in forno, ti si apre e succede e succede un casino. Il risultato migliore si ottiene usando, figuratevi, graffette chirurgiche, non proprio una sorpresa, ma almeno i ricercatori hanno fatto scorpacciate così di tacchini. Quindi mi raccomando, suturate bene il vostro tacchino. Should follow my blueprint, baby. Strap on your seat and get ready to go. You know I've been feeling be 43 million feet up in the sky full of diamonds. I'm only beginning and I get the feeling I'll be higher before the night is. I got a few Miami vices. I don't ever look at the prices. My Super Bowl tickets are priceless. You know who the king of the night is. Beautiful music for you to go nowhere. You and your girl both work this pole. I think I'm bipolar. Baseline high, you know how I feel. Somebody ain't bigger than life. 50 bottles of Luminous, 24K, pop my dollars, we good for the night. Cameras flicking, I see me a fixin', I'm fixing my collar, my natural high. She can get it, my whole clique is with it, no question, we all on this champion vibe. This how I ride, my passenger fly, we take off in London, end up in Dubai. This is a marriage, and music my ride, my life is so lavish, you don't recognize. So let's toast to a new day approaching, 80 million is the roller coaster. Want the recipe to this devotion, I got the melody soaring like Vulture. E noi rientriamo come sempre qua all'interno di CRM Happy Days con questo bellissimo pezzo dei Florida. Sono le 17.41, voglio salutare un mio caro amico che mi sta ascoltando dalla Francia, che è stato anche qua settimana scorsa. Ciao Cavallino! E noi continuiamo sempre con la musica, non ci fermiamo proprio mai. Ma mai, mai, mai. Yo! Vi ricordo, se volete mandarci un SMS, fatto sempre al 335 56 37 251.

Noi continuiamo sempre con la musica qua all'interno di CRM Happy Days con Mariah Carey. 100% and I ain't stopping till I reach the finish. Yeah. I'm a believer, not just a dreamer. I'm giving everything I got. I'm a go-getter, 100% undoubtedly. The time. I ain't gonna let nothing discourage or dissuade me, 'cause I'm walking out of here a champion either way, babe. I ain't giving it 100%, so gonna put your ones up. Il grande Nef, molto calmo, sempre all'interno di CRM Happy Days, grandissima canzone del 2013, questa del grande artista italiano Nef. Va bene, sono le 17.58, ricordo sempre ai miei cari radioascoltatori che potete mandarci appunto degli sms, lo potete fare sempre al 335 56 37 251 e potete seguirci anche su Facebook, appunto alla pagina CRM Happy Radio, appunto. Ebbene ragazzi, ormai questo Natale è veramente proprio alle porte, la gente tenta di comprare, compra tante cose, in effetti proprio il dubbio delle persone dice: ma cosa compriamo questo Natale? Cosa potrebbe essere una cosa che potrebbe fare piacere e contento una persona? Oggi in effetti quest'anno non si pensa più, diciamo, molto al materialismo degli oggetti, ma si possono regalare anche emozioni, quindi questo inverno, diciamo, questo Natale che verrà, regalate un sorriso, un abbraccio, un bacio anche, perché no, potrebbe essere come regalo sicuramente, ma anche meglio che, lo so, dell'iPhone o della magliettina nuova o delle cose, ecco. E, diciamo, non pensiamo più soltanto al materialismo, ma pensiamo pure che ci sono delle persone che purtroppo questo Natale non lo potranno festeggiare nel meglio dei modi, perché c'è gente che purtroppo sta male, gente che è anche in mezzo alle strade, che non ce la fa proprio, e voi dovete dare tutto il vostro amore e il vostro affetto, soprattutto, a meno per Natale, si dice sempre, a Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. Va bene ragazzi, noi ci sentiamo giusto fra un pochetto dopo le news. I'll be home for Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents on the tree. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas, if only in my dreams. Won't you please have snow and mistletoe and presents under the tree for me. Christmas Eve will find me where the love light gleams. I'll be home for Christmas if grande voce di Frank Sinatra, He'll Buy Home for Christmas, proprio ci sta bene, visto che stiamo proprio Arriva della radio, devo dire, gran bella canzone, questa del grande Frank Sinatra, voce, devo dire, sempre grandiosa e bellissima. E ritornando comunque al discorso di prima, cari ragazzi, per quanto riguarda i regali di Natale, potete fare questo regalo, in effetti ci sono, potete regalare degli occhiali ai vostri amici pigri che magari non vogliono alzarsi, diciamo che sono distesi nel divano ma devono stare per forza seduti a guardarsi la televisione, possono comprare questi tipi di occhiali che permettono di guardare la televisione belli sdraiati, proprio così. C'è la soluzione ai vostri problemi, si tratta appunto di Lazy Glasses, creati da Tim Geck, che è questo ingegnere, e che si sono rivolti a chi sono rivolti gli occhiali, è ben chiarito dal nome stesso, dato che Lazy significa pigro e glasses occhiali. Gli occhiali sono dotati di appositi specchi che permettono di vedere la TV anche stando perfettamente distesi, e sono presentati come la soluzione tecnica al problema di dover stare seduti dritti per vedere la televisione. Possono essere usati anche per leggere un libro senza dover alzare la testa dal cuscino. Quindi devo dire, è carina come regalino. Se volete farlo, comprate questi occhiali. Non so se in Italia li faranno, ma forse sì. Noi passiamo sempre avanti con la musica. Adesso ci sentiamo un bel pezzo di Justin Timberlake, Take Back Tonight, qui sempre su CRM Happy Days. E poi parleremo anche di Justin Timberlake, perché gli è successo un fatto particolare sul palco. This was your city. You did it all and more, broke every law except for one, babe. Attraction, are you ready? I know you feel it, pull you nearer till you feel it again. Oh, I wanna do something right, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save it for later. Stay out here living the life, yeah. Nobody cares who we are tomorrow, Mona. I got that little something I like, the little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until the catch your breath, yeah. Take back the night. Ooh, don't know when the sun is rising next. Take back the night. So if the feeling's right, then raise your glass and let's take back the night, take back the night, They gon' try to shut us down, but I'd be damned if we gon' let them. Take back the night, take back the night, ooh. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. Take back the night, not too many, no one but you in crowded rooms. We can do anything. Attraction can drive you crazy, and the way you move when you go crazy, that's incentive for me. We wanna do something right, yeah, but we could do something better. There ain't no time like tonight, and we ain't trying to save up for later. Stay out here living the life, nobody cares who we are tomorrow. Got that little something I like, that little something I've been wanting to borrow. Tonight's the night, come on, surrender. I won't lead your love astray, astray, yeah. Your love's a weapon, give your body some direction. That's my aim. Then we could take back the night. Come on, use me up until there's nothing left. Take back the night. Dizzy, spinning, sweating, you can't catch your breath. Shut us down, but I'll be damned if we gon' let 'em take back the night. Take back the night, ooh. You know you gon' mess around. And E questo era Justin Bieber qua su CRM Happy Days. Per quanto riguarda Justin Bieber, Justin Timberlake, mi ero un pochettino sbagliato. Justin Timberlake, mentre stava facendo un concerto, il futuro sposo si è dichiarato sul palco a pochi metri dal cantante. Poi però il cantante ha fatto salire questo fans, ha fermato lo spettacolo per proprio far fare questa dichiarazione di matrimonio davanti a centinaia e centinaia di migliaia di fan. Justin Timberlake che gli ha proprio permesso davanti, devo dire, una gran persona, una bella cosa, devo dire. Jean Climos e Kim Martin erano andati insieme a questo concerto appunto di Justin Bieber e di Justin, ancora c'era Timberlake, erano proprio sotto il palco ad ascoltare la romantica That Girl quando Justin Timberlake ha fermato il concerto e li ha portati tutti e due al centro sul palco. Devo dire, grande Justin. Va bene ragazzi, rimanete sempre collegati su CRM P Radio e sempre all'interno di CRM Happy Days. Noi adesso ci formiamo giusto un pizzico e ci rivediamo fra un po' sempre con la migliore musica di CRM Happy Days. Coltivati a batterie negli alveari di cemento, siamo stati tutti selezionati accuratamente. Come natura crea, la legge poi distrugge, dentro questo ciclo modificato geneticamente, che vive la mia gente in assoluta sincronia col mondo adiacente, ma sempre fuori tempo, guardare e non toccare. Però desiderate, desiderate pure, quartiere programmato, programmato di reato, quartiere programmato per chi carcerata, famiglia condannata, assieme carcerata, famiglia condannata, mandane un carcere stata. Cattivi guagliona, noi tenim malattive precedente decidive, cattive, cattive, la colpa è sulla nostra, se sto mondo non funziona. Cattivi guagliona, simma noi che simma tutto quanto nata sbagliata, cattive, cattive, non eravamo mangannate, già ci avevano condannate. Stevano, un gruppo di signorine che se la mandavano, due mamme che chiagnevano, non capivano. Cucchiere ne parlato, sa va che sa fa, viglia ma dove sta? Totoro che appena avevo frate era buffe mazzata. Luchetta che parlava rocainata, tutta ammirata, nupata. Calo avarindo pacche tre camise perché che chilo in sera regolata. Gente normale che avevo un ospedale o mercato, o in fila per parlare che pariente carcerata. Perché rinda sticelle non ci trovi peculate, truffa aggravata contro Stato, farsi in bilancio, bancarotta fraudolenta, corruzione magistrato, evasione fiscale. Trova Pascal, rapina a mano armata, trova Vicenza, spacciatore, arenato, ship estorsione, trova Diego, risse e danneggiamento aggravato, e se tu vieni buono, trovo puro cazzo che cagato, tua legalità, l'inflessibilità, certezza della pena o magistrato di sorveglianza, voi cito una paranza, e gente che ha perduto la dignità, e pagliacci che non fanno varia, e io mi sonno tutto e notte, capo prega a bocca aperto la tacca. Cattivi guagnoni, malattive precedente recidive, cattive, cattive, la colpa è sulla nostra, se sto mondo non funziona. Cattivi guagliona, simma noi che simma tutto quanto nata sbagliata. Cattive, cattive, noi non eravamo ingannate, già ci avevano condannata. Condannata, condannata in primo grado a commettere reati, nata in tacetti quartiere che a te che le catenim e che le cacciamma rubata. Concentrati, invogliati, sedotti, abbandonati, poi l'appello, cassazione e chiamo tutto quanto carcerata. Niente clemenza, e se non fosse abbastanza, roba si pregiudicata, sospettata, delinquente abituale, sorvegliata. Ata che non c'è sto stato, c'è sto stato, stanno i guardi e sta galera, secondino magistrato, ca, ta fai con l'avvocato. È un ambiente esclusivo, è l'ambiente negativo, estorsione, scippo, omicidio, spaccio, aggressione, ricettazione, rapine e tamanere. Tentato, sventato, reiterato, mano a mano, con destrezza, a mano armato, con tristezza, aggravato, con l'intenzione loreato, ma capisci, stai scettata. Avevo fa una bella cosa, si entano frate, non veni mai a tostonco e casista, sta a casa tua e viro quanto è suggestivo, quando vai a definitiva. Cattivi guaglione, noi tenim malattive precedente recidive, cattivo guaglione. Questa era grande 99 Post, cattivi guaglione, Uzzuru! Funziona, cattivi guaglione. un pezzo del 2011 dei 99 Posse, grandissimo gruppo che negli anni 80-90 ha fatto gran bella musica. Noi passiamo sempre avanti con la musica qua su CRM Happy Days, adesso con Bruno Mars, Gorilla. Questa canzone la voglio dedicare a Maria, Nicola, Francesca, Alessia, Alessandra che ci stanno ascoltando. Ciao! It's a killer, you'll be banging on my chest, bang, bang, gorilla. Grande Bruno Mars, Gorilla, sempre qua in diretta su CRM P Radio. Siamo sempre all'interno di CRM P Days, 18:24, la voce che sentite di Alessandro Salarese che vi terrà compagnia fino alle 19, così stiamo passando questo bel mercoledì pomeriggio assieme. Noi continuiamo comunque sempre con la musica, non ci fermiamo mai, e potete sentire ecco il grande Mario Biondi, sempre qua, Why Have You Done To Me. E questa canzone voglio salutare il mio carissimo amico Mimmo che ci ascolta da Como. Ciao Mimmo, tutta per te. Open up the door, won't you give some more of your love to me? The time was passed before, it's not enough and I want more. Give your love to me. I remember that life without you such a pain. And if it's up to me, I'd like the change to start again. I don't know, oh baby, I don't know. What have you done to me? What have you done to me? I don't know, baby, I don't know. What have you done to me?

inches were further, weaker days, I'm stronger. Now I so I say, but something's missing. Whatever. La bellissima Rihanna con What Now, qui sempre su CRM Happy Days. A proposito della bellissima cantante Rihanna, figuratevi, farà la dottoressa sexy per il cantante Eminem. Riri terapista d'eccezione nel video di Monster, appunto il video di Eminem. Una coppia esplosiva è pronta ad infiammare il mondo della musica. Rihanna è infatti l'ospite speciale di Monster, il nuovo singolo di Eminem. Nel video Riri è una sexy terapista che aiuta il rapper a far conti con il suo passato turbolento, fatto di violenza, dipendenza e pazzia. Un angelo della voce potente, perfettamente a suo agio tra le rime crude di Eminem, che aggiunge al brano il tocco pop che ci vuole per farne un singolo appunto di successo. Monster ha già scalato le classifiche di tutto il mondo ed è il quarto estratto dell'album di Eminem, The Marshall Master, LP2. Nel video di Rihanna interpreta una provocante psicologa che salva Eminem dai suoi demoni. La clip ripercorre l'intera carriera del rapper, dall'esordio al film Hot Mile, dai problemi con la droga fino all'abbraccio con Elton John al Grammy del 2001. Non è la prima volta che Eminem sceglie Rihanna come musa per le sue canzoni. Nel 2010 Riri aveva infatti collaborato col brano Love the White You Lee. Il pezzo era diventato in brevissimo tempo una hit, risultando il il terzo singolo più venduto, figuratevi, del 2010. Capito? Sono curioso proprio di andare a vedere poi questo video di Eminem con la bellissima Rihanna. Noi continuiamo sempre con la musica, non ci fermiamo mai. Sono le 18.40, abbiamo un altro quarto d'ora da passare assieme, sempre qui all'interno di CRM Happy Days. E per voi, qui Negro Amaro, una storia semplice. Solo ieri era un gioco, dicevi riguardasse me. Allora come spieghi il fuoco che brucia casa e brucia te? Ho visto andare tutto in fiamme, la nostra storia è quel che c'è. Tu mi ferma sulle gambe, continui a chiedermi, continui a chiedermi, continui a chiedermi perché. Questa non è una storia facile, per chi racconta di bugie spalmate sulle poche asciutte. Prova a smettere per poco, nel fumo tu non ridere. Trovo la faccia e sai che scopro che non è affatto semplice. Spiegarti che ho mandato in fiamme il nostro mondo e le tue bambole, ma tu sorridi sulle gambe, continui a chiedermi perché. Questa non è una storia facile, c'è chi racconta di bugie spalmate sulle poche asciutte. Questa non è la nostra storia semplice, tra 100.000 favole si scrive senza lieto fine. Sulle fiamme non si può spegnere, quello che brucia intorno a noi non è salvabile. Lo avessi fatto prima, avremmo il tempo ancora di rimediare ad ogni sbaglio con un'altra storia. Una più semplice, una più facile, ma non è colpa mia se per noi questo è vivere. Non ho più voglia di bugie spalmate sulle poche asciutte. Questa non è la nostra storia semplice. Una storia semplice, Negro Amaro, grandissimo gruppo italiano, un pezzo del 2013. Hanno fatto anche un gran bel tour i Negro Amaro, hanno proprio concluso proprio il tour semplice semplice. E Negro Amaro già dice che è piena di canzoni e stimoli nuovi. E dopo l'ultimo tour, che come abbiamo detto è andato molto bene, Negro Amaro hanno pubblicato un video che ripercorre il progetto Una Storia Semplice, dal brano che ha ispirato l'anonimo album fino al trionfante tour che si è appena concluso con Radio Italia come radio ufficiale. Nella clip Giuliano San Giorgi rivela che in questo momento la band salentina è piena di canzoni e stimoli nuovi. Questa è la fortuna di essere una band e farne parte, ti permette di provare emozioni nuove e intercambiabili. È bello, e il bello è questo, spiega appunto il cantante. Con questo ultimo contenuto video che la band ha regalato ai fan sul canale appunto YouTube ufficiale, si è chiuso il ciclo dei mini speciali in cui Negro Amaro in prima persona hanno raccontato aneddoti e ricordi legati al loro album. Il relativo post su Facebook ha ottenuto più di 5.000 mi piace, oltre 200 condivisioni e quasi 100 commenti. Pensate un po', Negro Amaro come al solito sono un gran gruppo, devo dire, molto bravi, bellissimi testi, e questo fa piacere anche a me, se questo gruppo, diciamo, ha ancora piene voglia di fare nuove canzoni e magari farci sentire anche, chi lo sa, magari un sound un po' più particolare. Va bene ragazzi, noi continuiamo sempre con la musica, non ci fermiamo mai, e adesso dopo i grandi Negramaro passiamo a un gruppo anche loro grandissimo, io parlo appunto dei Depeche Mode, questo è il pezzo del 2013, Heaven, che ha fatto anche un gran successo. Io con questa canzone voglio salutare Alessandro che mi ascolta da Napoli, Concettial. Abbiamo anche gli amici da Napoli che ci seguono grazie al www.crm.epiradio.it. Depeche Mode. Depeche Mode, qui sempre all'interno di CRM Happy Days, 18:48, ancora abbiamo un po' di tempo da passare assieme per riguardante il discorso di poco fa dei regali di Natale. Pensate un po' che i regali di Natale del 2013 gli italiani comprano online. Effettivamente sì, un'indagine condotta dallo showerprive.it, leader europeo del commercio specializzato nelle vendite private, ha individuato i settori merceologici perfetti per questa festa natalizia. Nel dettaglio, Shopify ha chiesto un campione di indagine formato da 1000 italiani, cosa metterà sotto l'albero ai propri cari. Se escludiamo i bambini, per i quali i giochi educativi vanno per la maggiore dal 41,5%, per i familiari stretti sono il cadeau di moda a vincere col 32%, per le mamme il 27% e per il papà anche. Tra gli amici questo ultimo comparto raccoglie il 24%, 24,2% delle preferenze, poca distanza dal 26,8% per libri e film. Questa preferenza viene poi confermata analizzando spaccato del comportamento d'acquisto in rete. Il settore che ottiene più consensi per gli acquisti natalizi online è proprio la moda, che a raggiungere il 37,5% delle preferenze grazie all'ampia scelta, ai prezzi vantaggiosi, alle consegne efficaci offerte dai player online, tra cui shopprive.it, una delle referenze europee nel settore delle vendite private. Il fatto che la moda online registri il 37,5% dell'informazione d'acquisto per questa stagione natalizia ci fa sentire parte di questo successo. Ebbene, ecco, quindi se volete risparmiare qualcosa di soldi, comprate online, magari riuscite proprio a, chissà, a risparmiare qualche spicciolino. Va bene ragazzi, noi ci sentiamo fra un pizzico. E noi rientriamo subito qua, sempre su CRM Happy Radio e sempre sul, dentro il programma CRM Happy Days. Questi sono i Verdena, Luna, poi ci ritroveremo qui per i saluti. Vi lascio con questo pezzo bello roccheggiante. I Grandi Verdena qui su CRM Happy Radio, devo dire grandissimo gruppo, Luna, un pezzo vecchiotto del 2004 ma sempre molto bello. Poi anche i Verdena devo dire che sono un gran gruppo a livello musicale e anche testuale, direi. Va bene, 18:57 ragazzi, abbiamo l'ultimo pezzo per oggi e dopodiché ci sentiremo più tardi dopo quest'ultimo pezzo e ci saluteremo. Shadow of the car goes, I'll take you one time. big stairway. French kisses in the darkened doorway. Fog horn blowing out a wild and cold. The policeman shines a light on my shoulder. Fast and silent in the night. Over my shoulder, all you can see are pile. No money, no jackets, and no jeans at all. Your hands are cold, but your lips are warm. Questi erano i grandi Dire Straits, questo era l'ultimo pezzo per oggi qui all'interno del programma CRM Happy Days, ma non preoccupatevi, noi ci ritroveremo sicuramente venerdì, sempre dalle 17 alle 19, dopo il programma della mia carissima amica Gerardine Turdo, semplicemente insieme, vi aspetteremo di nuovo appunto con CRM Happy Days, va bene? Un saluto a tutti i miei cari radioascoltatori e a tutta la redazione di CRM, noi ci vediamo venerdì, ciao guaglio!